A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. È il colore del mare che cambia, a preannunciare la passata bufera in Liguria. Alle Cinque Terre il paradiso finisce quando la barca entra prima nel porticciolo di Vernazza, poi tra gli scorci colorati di Monte Rosso. Qui l'acqua è gonfia di terra ed è come il fango che ha preso il posto delle strade in Lunigiana, a Borghettovara e ad Aulla. Fango venuto giù in un pomeriggio d'autunno, lasciando morte e distruzione dietro di sé. Questo pezzo di territorio è stato violentato, denuncia il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. E da queste parole partiamo per una puntata di A Ciascuno il Suo nelle ferite della terra. Non ho più casa, non ho più macchina, non ho più niente. Casa tua è stata proprio da... Sì, era nel fiume, quindi è stata travolta, cioè non c'è più niente dentro. È stata travolta dal fiume, anche lei che era a lavorare è stata travolta dal fiume. Cosa è rimasto di casa tua? Di casa mia niente, vestiti, mobili ribaltati, fango dappertutto, l'acqua a 1,50 m. Era molto vicina al fiume? Sì, perché non è già la prima volta lì dove mi hanno dato... È una casa popolare che è rivolta al fiume e dovevano costruire un muro e i soldi gliel'hanno dati per costruire e se li sono mangiati. E tutti gli anni questi poveri disgraziati devono stare con la paura di venire l'acqua in casa. Perché già anche negli anni scorsi ci sono state delle alluvioni. Lì delle case popolari sono messe così tutti gli anni. C'hanno sempre la paura del fiume che gli venga in casa, tutto perché non costruiscono questo muro. E quindi anche dopo le passate alluvioni non è cambiato nulla? No. Io abito lì da 16 anni. 16 anni il letto del fiume è salito 10 metri. 10 metri, mai una ruspa, mai niente. Niente. Tre volte in 15 giorni via di casa ieri, l'anno scorso. Tre volte in 15 giorni. Ogni volta che pioveva devi andare via di casa. Come si fa a vivere così? E le risposte che vi davano al comune? Abbiamo i soldi, non li possiamo usare. A settembre cominciamo, a giugno cominciamo, a gennaio cominciamo. Ora il morto è venuto, perché qua si aspettano i morti in Italia. La popolazione evacuata è impossibilitata a provvedere autonomamente. Ora i morti ci sono stati, ad Aulla come a Borghettovara, a Vernazza e a Monte Rosso, e ora si cercano le ragioni e i responsabili di quell'onda di fango che li ha uccisi. Ora il paesaggio lo si guarda con gli occhi anche delle inchieste e con la memoria dei progetti, fatti, rinviati o annunciati, che potrebbero avere un legame con quelle piogge fortissime che hanno spazzato via case e persone. In questo paese della Lunigiana il fiume Magra ha superato di 3 metri le barriere già erette in centro dopo le precedenti inondazioni. Non sono bastate però, e stavolta qui nel viale della Resistenza, davanti a scheletri di centri commerciali e negozi, si è consumata l'ultima disfatta dell'Italia. Famiglie sfollate che piangono lutti e danni e puntano il dito ora contro le omissioni, la mancata cura degli argini, il muro che non c'era a difesa delle case, ora contro recenti lavori che finiranno anche nel fascicolo per omicidio colposo aperto dalla procura di Massa. È stata una bomba d'acqua, esclama il sindaco Roberto Simoncini, che invano ci racconta aveva sollecitato all'autorità di bacino interventi agli argini. Questa è un po' l'eterna sfida che c'è fra gli abitanti, il fiume, l'amministrazione che continua a dire che bisognerebbe intervenire per risagomare il fiume nel suo insieme, pulendolo dagli alberi, rendendolo più scorrevole, e si combatte sempre con alcune strutture che dicono che invece questo non comporterebbe nessun beneficio in termini di quantità di acqua trasportata. La cura e la manutenzione del fiume era fatta o no? Sì, diciamo che questo viene fatto in base a quello che è il rispetto delle leggi. Oggi nei fiumi non si può fare nulla perché le autorità di bacino dettano delle regole ben precise. Quindi diciamo che voi avreste voluto fare ulteriori interventi ma non ne avevate gli strumenti? Diciamo che la competenza non è del comune di Aulla ma è, diciamo, dell'autorità di bacino e del genio civile di poter fare interventi sui fiumi, e quindi noi abbiamo chiesto di risagomare proprio per cercare di migliorare l'aspetto anche di pulizia. Quando l'avete chiesto questo e vi hanno risposto? Ma questo è successo successo anche 2 anni fa, l'anno scorso, quando è successo le altre alluvioni, però ci hanno detto che la cosa non era possibile. No, mi faccia capire, quando è l'ultima volta che lei ha scritto all'autorità di bacino e perché vi hanno detto che non era possibile fare questi ulteriori interventi? Noi abbiamo fatto l'intervento sia nel 2009 che nel 2010, anche incontri pubblici nel quale abbiamo chiesto queste cose. I tecnici hanno detto che a seguito dello studio che hanno fatto sulla portata del fiume Magro, degli affluenti e quant'altro, anche andare a risagomare un attimo il fiume portando via ghiaia, non in modo eccessivo, ma dicendo questa è la sagoma ideale, avrebbe avuto un beneficio di 10 cm soltanto sull'altezza massima della massima piena. Quindi lo ritenevano un intervento inutile rispetto a quello che poteva essere il danno ambientale rispetto al beneficio. E invece, secondo lei e secondo la popolazione, se questi interventi fossero stati fatti, i danni sarebbero stati minori? Sicuramente sarebbero stati minori l'altra volta, forse anche questo. È sicuramente importante riuscire a fare perché ci mette in sicurezza rispetto alle altre piene. La gente che va fuori da balconi, aiuto, aiuto, aiuto. E siamo saliti e abbiamo dato una mano sulle spalle, abbiamo portato a riva. Ma noi siamo abituati, perché anche l'anno scorso è successa la stessa cosa. Guarda, neanche un cane viene maltrattato come vengono maltrattati noi. Perché io voglio dormire la sera, la notte, dormire tranquillo. Non che mi alzo prima mattina e vedo l'acqua sommersa. Ragazzi, io... Dormire con l'angoscia della pioggia. Io ora come ora ho paura di andare in casa. L'esasperazione della gente si tocca come il fango, lanciato pure contro le auto blu del ministro Altero Matteoli e il sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini. Anche a me ho notato che ci sono delle persone che in qualche modo hanno cominciato ad attaccare la macchina davanti a me, che non avevo capito fosse quella del questore, e credo a bordo ci fosse il sindaco di Aulla. Io mi sono fermato, ho visto una persona che conoscevo, quindi ho tirato giù il finestrino. Il fatto sta che hanno cominciato a tirare il fango, a inveirci, ha dato un pugno al nostro consigliere di Pontremoli Lecchini. È stato un gesto dettato da rabbia. C'è una polemica anche sul preavviso e sulla informazione riguardante... Io posso parlare solo per la mia realtà territoriale. Pontremoli, io ho spedito i fax come Tramontana, Protezione Civile e Provincia, che erano le 3:30, dove già dichiaravo lo stato di emergenza per Pontremoli. Quando avevate ricevuto la segnalazione dalla Protezione Civile su di un'allerta? È arrivato lunedì. Martedì noi alle 2:30 eravamo già operativi, perché a Pontremoli si segnalava il primo innalzamento, c'era questa pioggia fortissima ed era immediatamente percepibile che il terreno non riceveva. Trasmessa subito l'allerta maltempo anche ad Aulla, dove ci sono state 2 vittime. Il sindaco Simoncini ricorda che quando il prefetto l'ha chiamato il fiume era ancora nella norma, poi dice è salito velocemente e dagli altri comuni nessuno ci ha avvisato. Comunicazioni diverse avrebbero cambiato in parte la situazione, ci sarebbe stata un'evacuazione prima di quella bomba d'acqua. Probabilmente anche tutto questo finirà sotto la lente della magistratura, come tutti i lavori lungo il corso del fiume Magra, come l'intera gestione e cementificazione, soprattutto in passato, di un territorio tanto bello quanto fragile, sia nella Lunigiana sia ancor di più nelle Cinque Terre, lembi sospesi tra cielo e mare. Così è lo stesso capo della Protezione Civile Franco Gabrielli ad ammettere che la mano dell'uomo è stata decisiva negli effetti di questa alluvione. Da una parte le inchieste, dall'altra la contabilità delle costruzioni, sempre più numerose in questa striscia di terra, come ha documentato Ferruccio Sanza nel capitolo sulla Liguria contenuto nel saggio Il Partito del Cemento. Ci sono alcuni progetti che proprio nascono in zone a fortissimo rischio di alluvione o di esondazione. Per esempio il lago di Massaciuccoli, che ogni volta che piove è soggetto a esondazioni drammatiche. Vogliono costruire un albergo. Viene da chiedersi che cosa succederà ai poveri clienti dell'albergo quando ci saranno le esondazioni. Così come il fiume Magra, un fiume bellissimo, però tutta l'ultima parte del suo percorso, nella vicino alle foci, è stata pesantissimamente cementificata. E proprio dove il fiume finisce in mare è prevista la costruzione di un mega porticciolo da 1000 posti barca, società di proprietà del Monte dei Paschi di Siena. Viene da chiedersi se non possa avere anche degli effetti sul libero scorrimento delle acque verso il mare, aggravando eventualmente i rischi di alluvioni. Così come sta venendo fuori proprio in questi giorni un progetto altrettanto contestato nella zona di Brugnato, la zona del Vara, dove l'alluvione ha avuto gli effetti più devastanti, costruzione di un mega outlet. Ecco, questa è una zona che tra l'altro ha fatto del geologico e della tutela della natura una una delle sue grandissime molle di sviluppo economico. Ed ecco invece che il sindaco leghista di Brugnato sponsorizza fortissimamente questo outlet che dovrebbe nascere proprio nella zona che è stata coperta dalle acque del fiume. Sulle Cinque Terre c'è stato, guardate, un caso eclatante, il Villaggio Europa, un'operazione scontestatissima che nasce proprio in un gioiello che è quello di Corniglia. Si decide di dare il via a questa operazione immobiliare a Corniglia. A martedì scorso arriva la pioggia, frana, e la frana travolge proprio la zona dove doveva nascere questo villaggio. C'è da chiedersi anche qua: si dà il via a queste operazioni immobiliari, ma se per fortuna questa è stata bloccata dal Consiglio di Stato, se non fosse stata bloccata, quanti morti ci sarebbero stati? Riaprire i torrenti divenuti strade, tornare a coltivare le campagne, con le pale in mano in mezzo ai carrugi delle Cinque Terre pieni di terriccio, la voce della gente è il peana per quegli scorci color pastello macchiati dalla violenza del fango. A ciascuno il suo. Appena mio padre ha dato mio nipote a mio fratello, Questa marea d'acqua che arrivava proprio quasi sopra al cornicione della porta, tu immaginati questo fango, è subito stato trascinato via e gridava il nome di mio nipote. Come una cicatrice, il canalone pieno di fango sfregia il viso colorato di Vernazza e ora c'è solo quello nello sguardo di Gianluca, il figlio del gelataio, che voleva trasportare fino in Australia i sapori italiani. L'alluvione invece se l'è portato via e dietro i suoi grandi occhiali Gianluca non riesce a non interrogare la storia con una sfilza di sé. È stato proprio una catastrofe, sono cose che come un terremoto, non lo so. Sì, però anche negli anni scorsi c'erano state delle alluvioni. Ci sono state frane, strade interrotte, non ci si può trovare fuori dal mondo. Sei in un paese che ti viene, vengono a visitarti da tutto il mondo, sei conosciuto, però appena viene un po' d'acqua, succede qualcosa, sei isolato. Bisognerebbe dare un po' più di manutenzione, soprattutto questo canale. Magari se veniva coperto questo canale non succedeva tutto questo casino. Il problema principale viene da questo parcheggio su a monte che si è praticamente, dalle piogge, si è distrutto. Se il canale giù in paese fosse stato magari chiuso, non ci sarebbe stato questo imbuto creato da furgoni, macchine, detriti, alberi. Recita la tradizione che le facciate da queste parti abbiano i colori dei fiori per aiutare i marinai a ritrovare la propria casa. E ora che invece è tutto un indistinto di fango, fango che riempie i carrugi, che irrompe nelle case, che travolge auto e vite, è proprio al passato che anche i più giovani pensano sul molo di Vernazza, aspettando le barche che portano la sopravvivenza, acqua, cibo e pale. Tutto quello che è stato ricostruito negli ultimi tempi è più sopra. L'impressione semmai è stata un'altra, che le terre che non sono più state coltivate, ecco, quello potrebbe essere stato... Cioè quelli che erano i vecchi terrazzamenti. Che non sono più stati coltivati, sono stati abbandonati, forse il motivo più grave è quello. Però poi anche il cemento, indubbiamente, tutta la parte vecchia, la parte nuova, la parte alta, dove c'era il parcheggio, tutto, non c'è più niente, ha portato via tutto. Rievoca i muretti a secco invece un'anziana signora che, anche se a fatica, ha voluto andare a vedere i disastri dell'alluvione a Monte Rosso e stavolta, dice, è peggio pure dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 66 era già venuto un'alluvione, però non così bene. Bisogna tornare a lavorare la terra, i nostri muretti cari. Siamo sopra 3 metri di terra. Io ti dico la verità, che ho visto anche un po' di guerra. Mi sembra di essere tornata al dopoguerra, quando il nostro paese è stato bombardato. Stavolta le bombe sono fatte di acqua e terra, ma forse sono state amplificate dalle costruzioni, dalla mano dell'uomo denunciata dal capo della protezione civile, evocata dallo stesso vescovo di questa diocesi spezzina, Monsignor Moraglia. La catastrofe è immane, perché qui io non so i tempi di una ripresa, anche se la gente la vedo molto solidale, determinata, il carattere dei Liguri è così, però qui indubbiamente la tragedia ha delle dimensioni non superabili facilmente. Secondo lei si è costruito troppo? e io penso che indubbiamente il territorio debba essere rispettato, in tutti i sensi. Certamente la Liguria è un territorio che non può permettere più di tanto costruito, e qui forse c'è anche da chiedersi se dobbiamo rivedere anche questo, certamente. È negli anni 60 soprattutto che la Liguria, come gran parte dell'Italia, ha conosciuto una sua prima impennata di costruzioni, tale da trasformare la sorte di un altro celebre centro ligure in sinonimo proprio di cemento. Urbanizzazione selvaggia, questo vuol dire rapallizzazione, da rapallo appunto. E se in altre zone della regione in quegli anni sono stati costruiti mastodontici condomini fronte mare, nel piccolo presepe di Monterosso è stato coperto un torrente caro al poeta Eugenio Montale, che ora è il titolare di un negozio, e molti altri insieme a lui, mentre sparano, sembrano quasi voler distinto riportare alla luce. L'unica precauzione da fare è riportare il paese come era prima, negli anni 60. Là il paese c'era tutti dei pontini tipo Venezia, era meraviglioso. Quindi si è costruito troppo? Si è costruito la strada sopra la vecchia valle, qua la chiamano valle lì. Si lascia la valle libera. Così se viene anche un'ondata fortissima, porta tutto in mare. We're having lunch in the restaurant and all of a sudden the rain was coming. Solo da poche ore era arrivata questa coppia di turisti americani, precipitata ben presto in un inferno di fango, invece che in quella cartolina di ulivi e scogli che ha fatto delle Cinque Terre patrimonio dell'UNESCO. Però anche qui, negli anni 60, il partito del cemento si è fatto sentire, come ammette il senatore Luigi Grillo, PDL, presidente della Commissione Infrastrutture, residenti a Monterosso e primo sostenitore della creazione del parco. Il parco nel 98 in Parlamento l'abbiamo trasformato dal parco regionale in parco nazionale. Il Ministero dell'Ambiente ci ha messo a disposizione maggiori risorse e quindi i vincoli sono rimasti, ma disponendo di maggiori risorse abbiamo potuto fare interventi di riqualificazione. Molti degli abitanti, mentre spalano i detriti, dicono: qui c'era un torrente, adesso c'è la strada, forse se fosse rimasto il torrente con i vecchi canali la furia dell'acqua, della terra sarebbe stata diversa e non ci sarebbero state tutte queste distruzioni. Ma questa decisione è stata presa circa 50-60 anni fa. Se nelle altre zone della Liguria in quegli stessi anni sono stati costruiti palazzoni, grandi condomini, in questa zona, come lei diceva, non c'è stato tutto questo, però forse è figlio di quella stessa cultura anche il fatto che sia stato coperto quel torrente. Una volta, parlando con un geologo molto aggiornato e molto preparato, mi spiegò che la più parte delle costruzioni realizzate negli anni 50 e 60 dovremmo demolirli tutti, perché non hanno i presupposti per tenere e per mantenersi a lungo. Ma come abbiamo sentito già nella prima parte di A ciascuno il suo, le costruzioni ardite non si sono fermate agli anni 60. Alberghi, outlet e porticcioli sono lì che aspettano tuttora di essere realizzati, sulle sponde di laghi, alle foci di fiumi, sui pendii di ripide colline. Qui non c'è una Punta Perrotti come a Bari o l'albergone di furore della costa amalfitana. Quei progetti e il cemento non hanno il marchio dell'abuso, ma vanno ugualmente a rosicchiare altro spazio ad una terra fragile che poi frana, oltre al fatto che pezzo dopo pezzo feriscono di nuove cicatrici un viso che così sfiorisce e che, ad esempio, per Monterosso e le Cinque Terre non è comunque più già quello cantato da Eugenio Montale, il poeta che qui aveva casa e che lo celebrava tra l'altro nel suo Meriggiare pallido e assorto. E con i versi di Montale chiudiamo questa puntata di A ciascuno il suo, versi letti dal critico letterario Andrea Cortellessa. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. A ciascuno il suo finisce qui. Per riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate, radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. Ci ritrovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, o sull'audioblog Storiacce, dove trovate anche le foto che abbiamo scattato nei paesi dell'alluvione. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.